In questi tempi complicati abbiamo pensato di usare la nostra voce per parlare di cambiamenti che attraversano le città. La metropoli della rendita, del greenwashing, del tecnocapitalismo sembra un Moloch in grado di regolare le nostre vite fisiche e penetrare il nostro immaginario. A questo punto ci tocca ragionare partendo da una domanda, se possibile radicale. Che cosa significa affermare il diritto alla città oggi? La nostra indagine parte da Milano, il luogo in cui viviamo, e si espande al resto dell'universo, non perché Milano sia il centro dell'universo, ma perché ogni modello è replicabile in scala e ogni situazione particolare ne contiene una più grande, che ci coinvolge tutti. Questo podcast si chiama Fuori Fase. Le musiche sono di Le Gros Ballon e lo produce il collettivo politico Off Topic Lab. Cosa significa vivere in una città digitalizzata oggi o smart city in futuro? Io vorrei fare la premessa che preferirei non usare la parola smart. Quello di cui parliamo è un ambiente tecnologicamente sorvegliato. Chiamarla data surveillance city sarebbe più appropriato. Certo che se la chiamo così nessuno ci vuole abitare, per questo la chiamano smart, così se non sei d'accordo ti devi sentire dumb. Credo che vivere in una smart city significherà essere degli smart citizen e credo che non sarà una libera scelta. Intendo dire che la città non permetterà né stili di vita alternativi né biodiversità, ma che creerà omologazione nei comportamenti. Questa la chiamerei smartificazione. Questa puntata parla di smart cities e sorveglianza e lo fa con Dandy Unit Hagla e Laura Carrer, giornalista freelance e ricercatrice Hermes Center for Transparency and Human Rights. In un'epoca in cui le città si estendono in egual misura nello spazio materiale e in quello digitale, è importante conoscere le ricadute sulle nostre vite delle azioni che svolgiamo quotidianamente nell'attraversare la città virtuale. Durante il corso di una giornata siamo costantemente connessi a internet, non solo ricerche su Google e condivisioni di informazioni attraverso i social network. Da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto, utilizziamo sveglie, mappe, contapassi, programmi per ascoltare musica o fare conferenze online, app per fare nuove conoscenze, per fare acquisti, controllare l'andamento del ciclo mestruale o praticare sport. Tutte queste attività, registrate da appositi sensori, producono dati, ossia una grande quantità di informazioni sulle nostre vite, che sono delle vere e proprie miniere d'oro per le corporation dell'high tech, che possono così indirizzare scelte commerciali e consumi e trarre maggior profitto estraendolo direttamente dalle nostre esistenze. È ciò che viene definito surplus comportamentale ed è alla base del ciclo di consumo e produzione del cosiddetto capitalismo della sorveglianza. A parte il discorso delle scatolette, altrimenti detto delle IoT, cioè internet, l'internet delle cose, cioè telecamere, router, robot pulisci pavimenti, altoparlanti che prendono comandi vocali, lo smartphone è un sensore, cioè può raccogliere dati e inviarli a un'altra macchina elettronica. Ad esempio uno smartphone raccoglie dati audio come la voce, i tocchi sullo schermo, ha una tastiera per immettere lettere e parole, ascolta anche i movimenti e le oscillazioni e sa dove si trova geograficamente e naturalmente comunica con le altre macchine, con la connessione dati o wifi, con il bluetooth, con il protocollo NFC che serve ora per i pagamenti senza contatto, ma è anche un telefono che trasmette la voce. Inoltre si appoggia al corpo, esistono già le tecnologie indossabili come gli orologi che contano i battiti cardiaci. In una situazione di emergenza sanitaria sarà difficile in futuro sottrarsi alle rilevazioni corporee obbligatorie, non fosse altro che per motivi assicurativi. Forse dovremmo iniziare a parlare più che delle tecnologie, dell'ambiente tecnologico che ci circonda. La Smart City è un ambiente tecnologico, siamo in grado di valutare la questione ecologica in termini ambientali, dunque dovremmo imparare a riconoscere anche un ambiente tecnologico nocivo da uno liberante. In questo contesto si inserisce la retorica della Smart City, una città che nasce con la promessa di rendere la vita più facile attraverso infrastrutture digitali e una rete capillare di sensori costantemente connessi a internet. Una città, dunque, dove lo spazio materiale si riduce in percentuale a favore di un'enorme estensione di quello digitale. Viene venduto il sogno di una città innovativa, efficiente e sicura, funzionale e sostenibile, grazie a soluzioni ipertecnologiche. Nella città del futuro, l'Internet delle cose permetterà di raccogliere dati in tempo reale, mettendo in comunicazione tra loro gli oggetti, capaci di scambiarsi informazioni per regolare al meglio problematiche come il consumo energetico o la gestione del traffico delle automobili. Il problema è che la Smart City non è un modello democratico, inclusivo e neutrale, perché la tecnologia che l'alimenta non è neutrale e nella maggioranza dei casi favorisce dei meccanismi di controllo e accentramento di potere e capitali. Smart è sinonimo di collettore di dati e le applicazioni digitali, proprietà di aziende private, sono ormai diventate il principale mezzo di accesso e di comprensione dello spazio urbano. Una volta assunto che i dati hanno un valore, che sono la merce all'interno di un sistema mercantile, è abbastanza facile scoprire chi ne fa commercio. In questo ci ha dato una grossa mano Shoshana Zuboff con il suo capitalismo della sorveglianza, per spiegare che il capitalismo si rapporta ai dati come una merce, la estrae da dove si trova e ne fa profitto. I dati vengono prodotti dalle persone, dunque per estrarre i dati deve sorvegliarci, e per questo un ambiente tecnologico come una Smart City è l'ideale. Smart si può dire dunque che è un modo per rendere le città più attraenti per il capitale. Per rispondere a chi conviene che rimaniamo sempre connessi, al padrone naturalmente. La reperibilità totale è il segno distintivo dello schiavo. Numerosi progetti di città cosiddette intelligenti stanno nascendo in tutto il mondo. Quando non è possibile costruire una città ex novo, si assiste ad una smartificazione degli spazi urbani, che passa necessariamente dalla sorveglianza. A questo proposito si sta parlando molto di raccolta dei dati biometrici. Un sistema di riconoscimento biometrico è un particolare tipo di sistema informatico che ha lo scopo di identificare una persona sulla base di una o più caratteristiche fisiche. Ad esempio, nel riconoscimento facciale si misura lo spazio tra gli occhi, le proporzioni tra naso e bocca o altri parametri che caratterizzano il volto di un determinato individuo e lo rendono unico e quindi identificabile. In Italia, il primo caso di utilizzo di tali tecnologie è stato nella città di Como. Nel giugno 2020, insieme a Riccardo Coluccini e Filippo Di Salvo, che sono due giornalisti ricercatori, abbiamo pubblicato un'inchiesta su Wired Italia che raccontava il primo caso di riconoscimento facciale in un comune italiano. Il comune era quello di Como e ha implementato un sistema di questo tipo praticamente senza mettere a conoscenza i cittadini, senza che neanche il garante privacy sapesse di questa cosa. Ed è stato problematico in primis perché in Italia non c'è una base giuridica su cui poggiare l'utilizzo di tecnologie biometriche. e secondo ovviamente perché nessuno ne era a conoscenza, neanche i cittadini che passavano davanti alla stazione di Como, in cui era appunto installato il sistema di riconoscimento facciale. È un sistema che è stato fornito da Huawei, è stato in funzione, pensiamo, da febbraio fino all'aprile 2020. Abbiamo richiesto dati dei documenti al comune di Como su che cosa fosse la tecnologia che avevano installato. Una volta completata l'inchiesta, abbiamo segnalato la cosa al garante privacy, che ovviamente, non essendoci una base giuridica, ha intimato lo spegnimento di questo sistema, che è avvenuto, e quindi di fatto ora il comune di Como non ha più un sistema di riconoscimento facciale, ma è stata la prima città in Italia a utilizzare questo tipo di tecnologia, forte del fatto che appunto c'è un buco legislativo, un vuoto legislativo. Il riconoscimento facciale è stato negli ultimi anni al centro di numerosi dibattiti. I rischi per la privacy dei cittadini causati dagli abusi di tecnologie che utilizzano i dati biometrici sono ormai noti, e molte amministrazioni cittadine degli Stati Uniti, tra le quali Boston, San Francisco, Portland e Minneapolis, hanno deciso di vietare il riconoscimento facciale. In Europa, per provare a limitare gli effetti negativi di queste tecnologie, è nata la campagna Reclaim Your Face. Allora, la campagna Reclaim Your Face è nata novembre del 2020, quando EDRI, European Digital Rights Initiative, con sede a Bruxelles, ha cominciato a raccogliere casi di abuso di queste tecnologie biometriche che venivano utilizzate come sorveglianza sui cittadini, che ha portato questa associazione a dire facciamo qualcosa per tutelare i cittadini, e si è iniziato a pensare ad una campagna, ad una petizione, che fosse però una petizione ufficiale dell'Unione Europea, per cercare di vietare queste tecnologie biometriche, tra cui c'è il riconoscimento facciale, ma ce ne sono anche altre: il riconoscimento vocale, il riconoscimento dell'iride, il riconoscimento dell'andatura. E punta in sostanza a raccogliere nel giro di un anno, febbraio 2022, 1 milione di firme in almeno 7 stati europei. Per l'Italia ne dobbiamo raggiungere almeno 50.000, per appunto arrivare alla Commissione europea e chiedere il divieto dell'utilizzo di tecnologie biometriche che si basano su dati biometrici, nello specifico la tecnologia più importante che porta avanti questa campagna è sicuramente il riconoscimento facciale. Un esempio pratico dell'effetto e dell'impatto che possono avere le tecnologie biometriche di sorveglianza è quello che può essere definito con, non so, noi utilizziamo la carta d'identità per identificarci, ma la teniamo in tasca, non ci viene richiesta ogni volta che ci muoviamo nella città. Con queste tecnologie invece saremmo sempre identificabili, anche senza saperlo, quindi sicuramente ha un impatto molto maggiore sulla nostra privacy e sui anche i comportamenti che attuiamo nella città, perché sapendo di essere osservati in qualche modo i nostri comportamenti cambiano. Magari non mi vesto in un determinato modo, non mi muovo in un determinato modo, non faccio vedere il volto, tutta una serie di cose che però non dovrebbero succedere all'interno di uno spazio pubblico, in cui dovremmo invece sentirci a nostro agio. A Milano il mantra Smart si sta concretizzando a diversi livelli ed ha un impatto di trasformazione sia sociale che urbano. Pensiamo all'arrivo in città di diverse sedi delle big tech internazionali, che sono tra i principali fautori del capitalismo della sorveglianza. Google, Amazon, Microsoft, Samsung, Huawei. Si insediano nei nuovi distretti costruiti appositamente per loro, come Porta Nuova o Porta Volta, e si rendono complici della trasformazione del tessuto sociale preesistente. I servizi e il comparto abitativo diventano sempre più esclusivi poiché tagliati su stipendi da Silicon Valley. Mentre in altre città come New York un colosso come Amazon ha dovuto rinunciare ad insediare il suo quartier generale proprio perché ha trovato una fervida opposizione nei politici e nelle associazioni locali che criticavano le ingenti agevolazioni economiche e gli effetti gentrificatori che avrebbe avuto nel quartiere del Queens, a Milano la loro presenza non viene mai criticizzata da parte del comune, ma solamente osannata come portatrice di innovazione e posti di lavoro. Sotto l'etichetta Smart annoveriamo anche lo Smart District, Uptown Mind, che sorgerà sull'ex area Expo e la zona di Cascina Merlata. Al posto di quella che era l'area agricola più estesa del nord-ovest milanese, nascerà un centro residenziale commerciale, la nuova sede dell'ospedale Galeazzi, un campus universitario dell'Università Statale, il centro di ricerca Human Technopole, un centro commerciale di ben 85.000 metri quadri e un parco urbano. Di fatto diventa un grande parco giochi dove aziende pubbliche e private, A2A e Vodafone in primis, potranno sperimentare tecnologie, sensori e raccolta dati dietro l'etichetta di Wellbeing City. Anche il comune di Milano non sta a guardare e ha già in campo diversi progetti smart, che attraverso la costante raccolta di dati sul territorio dovrebbero migliorare la vita del cittadino e favorire la cosiddetta transizione ecologica di alcuni quartieri. Di particolare interesse, sotto questo punto di vista, è il progetto chiamato Smart IP, che ha come luogo di attuazione, attenzione, il quadrilatero dei caseggiati popolari Aller del quartiere Giambellino. Formalmente è un progetto di illuminazione pubblica, intelligente, che prevede l'installazione di nuovi lampioni che si autoregolano in base alle variabili atmosferiche, ma anche al passaggio delle persone. Ma come fanno? Se leggiamo con attenzione, notiamo che oltre i lampioni l'oggetto più presente saranno 20 nuove telecamere che saranno in grado di riconoscere se sta passando ad esempio una persona e quindi aumenterà la luminosità per rendere la zona più sicura. Oppure saranno in grado di riconoscere oggetti abbandonati e di segnalarli alle autorità che provvederanno a ripristinare il decoro urbano. Sicurezza percepita, decoro urbano, telecamere, sensori, algoritmi di computer vision, parole che insieme stridono quando vengono usati come risolutore di problemi sociali, in particolare contesti urbani. Parole tipiche di quelli che vengono definiti i tecnosoluzionisti, che vedono la città come il sistema dei sistemi, dove più dati vengono raccolti, incrociati e analizzati, più sono in grado di trovare delle soluzioni precise e delle risposte a dei problemi che di tecnico di fatto però hanno ben poco. Questa continua profilazione e raccolta di dati della nostra vita quotidiana e l'iperconnessione tra gli oggetti sono due degli elementi fondanti della società della prestazione, società in cui si misura, quantifica e restituisce una valutazione di ogni azione effettuata dagli individui con l'obiettivo di aumentare la loro performance. Il premio quindi diventa prioritario alla punizione. Ed è proprio nel solco di questo che viene definita gamification che si inserisce un altro progetto del Comune di Milano, l'App Sostenibilissima, programma, e cito, per la premiazione di cittadini che seguono comportamenti virtuosi. Cos'è virtuoso, però ovviamente lo decide il Comune. Ogni cittadino comunque raccoglierà dei punti in base alle sue azioni sostenibili e potrà convertirli in premi o in moneta virtuale, che ovviamente verrà certificata su una blockchain. Quando questo rapporto tra cittadino e istituzione è gestito tramite un'intermediazione digitale tecnologica, la partecipazione rischia di prendere la forma di un commento, una valutazione, trasformando di fatto la posizione di cittadino in quello di utente. L'esperienza dell'utente slash cittadino diventa ad uno con l'istituzione e quindi iperindividualizzata, isolata, e ne deriva una perdita di autonomia, di capacità di agire collettiva. Vivere quindi nella Smart City di oggi significa essere in uno stato di costante transizione tra l'essere cittadino e l'essere utente, dove le disparità sociali vengono regolate e automatizzate attraverso i servizi erogati dalle macchine, producendo nuovi ambiti di esclusione nell'urbano. ho un aneddoto su Shoshana Zuboff. L'ho incontrata quando è stata in Italia, prima della pandemia. Lei dice che la situazione è senza uscita, la chiama una no exit situation. Le ho detto che allora se non c'è un'uscita l'unica soluzione pare essere il sabotaggio. E lei ha risposto che questa cosa è interessante. Del resto il sabotaggio è stato il modo con cui gli operai dell'industria tessile inglese hanno combattuto contro i padroni, danneggiando le macchine che li opprimevano e che gli impedivano di far valere il loro sciopero. Un discorso pratico di resistenza a un insieme tecnologico è ancora da venire quello del software libero, che nasce nel 1934 e diceva che il software, per poter essere libero, deve avere tre qualità: poter vedere il codice sorgente, poterlo variare e di poter distribuire le variazioni senza che le variazioni smettano di essere libere, cioè non si può prendere un software libero e farlo diventare proprietario. Dunque l'idea del software libero, che ha una licenza virale, chiamata così appunto, è molto importante perché mette in discussione il concetto stesso di proprietà privata. Si distingue così dal software proprietario, o anche soggiogante, il cui utilizzo invece ti vincola a una serie di licenze e obblighi, e la cosa è particolarmente vera per le istituzioni. Ma questo discorso radicale è stato sussunto, capitalisticamente parlando, dal discorso dell'open source, che invece ha solo una delle tre qualità di cui ha bisogno per essere libero. Fino a che continueremo a considerare la tecnologia come neutrale o ineluttabile, avremo poche chance di rapportarci a un ambiente tecnologico ostile, se non rompendolo. Perché l'ambiente tecnologico sia liberante, bisogna che sia libero, altrimenti passeremo la vita a chiederci se sia possibile deturnare, cioè usare ad un altro scopo rispetto a quello per cui è stata ideata, una tecnologia che invece è stato disegnato su misura per il capitale, ci vede come clienti, non come persone, e lo scopo e la natura di una smart city è di estrarre dati. Quello del software libero sarebbe un discorso da riprendere, visto che in questo momento storico le comunicazioni immediate sono obbligatorie e aumentano di frequenza e di importanza le conseguenze del tipo di tecnologia che si sceglie. Questo podcast è una produzione del Laboratorio Politico Off Topic. Per approfondire queste tematiche, puoi trovarci sul sito offtopiclab.org oppure seguire il nostro canale Telegram Off Topic Lab. Se poi vuoi conoscerci di persona, tutti i martedì sera dalle ore 21 ci trovi allo spazio sociale Piano Terra, in via Federico Confalonieri 3, al quartiere Issola. A presto, ciao! Thank you.